Ma tantissime, tanto che il nostro reportage da Las Vegas non potrà che essere di più di 40 pagine alla fine, quindi non possiamo condensarle in pochi minuti di racconto, però sicuramente partirei dalla cosa più impressionante ed è il TV più grande del mondo. Il TV più grande del mondo è stato presentato quest'anno da Panasonic, il record precedente era di Sharp con 108 pollici, qui il salto è stato grande, siamo passati da 108 a 150 pollici. Per chi volesse far di conto, vuol dire che insomma, bisogna moltiplicare per 2,54 centimetri e si arriva a circa 3,70 metri di diagonale, 3,70 metri di diagonale, vuol dire siamo quasi più vicini a una porta da calcetto, ecco, insomma, che è un televisore, ecco, è una cosa molto molto molto grande. Ovviamente non si parla di applicazioni, non si parla più di applicazioni prettamente domestiche, ma quasi diciamo industriali o da locali pubblici, cose di questo tipo. Però diciamo, Panasonic è stata confortata in questa scelta dal discreto successo avuto dal suo bestione precedente, permettetemi il termine, era 103 pollici il TV plasma commercializzato prima da Panasonic. Il presidente di Panasonic ha detto che ne sono stati venduti nel mondo 3.000. Tutto sommato non è un numero trascurabile, tenendo conto anche che il costo di questo televisore era un costo sicuramente molto importante, vicino ai 40.000 euro. Quindi insomma, hanno scelto di andare oltre e di presentare un 150 pollici. Impressionante vederlo con una persona a fianco. Quando abbiamo parlato nelle prime ore della fiera all'inizio di questa settimana, una delle prime cose che tu mi hai detto è, citando appunto questi grandi schermi, più che le dimensioni, oramai fa notizia lo spessore dei TV. Che cosa significa questo? Significa che in termini di risoluzione e dimensioni di schermo oramai l'offerta è assolutamente ampia e in grado di soddisfare qualsiasi utente domestico. Bisognava andare oltre, la ricerca e sviluppo non si ferma mai per definizione e quindi si è pensato che anche l'aspetto estetico, ma anche tutto sommato di ambientazione del TV fosse ancora limitato dal fatto che sì, sono piatti, però insomma la maggior parte delle volte questi TV sopra i 40 pollici sono spessi anche una decina di centimetri e quindi non propriamente piatti come ci si potrebbe immaginare. Un po' sull'onda insomma, dell'emozione che ha suscitato il lancio in Giappone dei primi TV OLED, che è un'altra tecnologia che sta comparendo sul mercato, che sono molto piatti, molto sottili, le aziende hanno provato a rendere sottili anche i TV nelle altre tecnologie. Ed ecco che abbiamo visto comparire i primi prototipi di TV molto piatti. Alcuni già verranno commercializzati nel corso del 2008 e hanno spessori intorno ai 3 centimetri, quindi sicuramente molto sottili, con una cornice anch'essa molto sottile. Devo dire che la linea proprio anche estetica del TV cambia completamente, sembrano molto più un foglio più che uno schermo con un certo spessore come siamo abituati a vederli oggi. Ma ovviamente niente a che vedere con i prototipi invece che riguardano forse i lanci, ecco, più vicini al 2009, che hanno spinto, per esempio Pioneer ha presentato un prototipo spesso di TV al plasma, quindi una tecnologia anche complessa, spesso 8 mm e quindi tanto per dare un esempio, il presidente di Pioneer che parlava alla conferenza stampa ha tirato fuori di tasca un iPhone dicendo, ecco, vedete, questo è uno dei più diffusi telefonini negli Stati Uniti in questo momento, è alto 1,2 cm, il nostro TV è alto soltanto 8 mm, però è un plasma da 50 pollici.